si accorgono che ho sentito. Che bello te così telefonato, mi dice la donna, telefonato. Questa che deve venire domani mattina. Meno male che non mi succede con l'altro, ma ce l'abbiamo in casa. Buongiorno, benvenuti a bordo del treno, alta velocità, Freccia Argento, 94-66. Il treno fermerà a Rovereto, Trento e arriverà a Bolzano alle ore 14:44. Trenitalia vi augura buon viaggio. Gentili clienti, vi invitiamo ad abbassare la suoneria dei cellulari e il tono della voce al fine di non disturbare gli altri viaggiatori. Grazie per la collaborazione e buon viaggio. Good morning. Welcome on board the high speed train. Freccia Argento 94-66. The train will stop in Rovereto, Trento. And will arrive in Bolzano at 14:44. Trenitalia wishes you a pleasant journey. Dear customers, please lower the volume of mobile phones and the tone of voice so as not to disturb other passengers. Trenitalia wishes you a pleasant journey. Arriviamo a 44, alle 15:00. 20 minuti. Però un momento, questa arriva a Milano 5, poi bisogna andare di là. Fai il biglietto? Ce l'hai adesso a portare in mano. Eh? Poi bisogna avere il biglietto per ritornare a giugno. Non ho capito questa cosa. Ma finché da solo mio ragazzo, da lontano un amore di Alizio e io ma proprio già meglio che giusto qua, lo dico sinceramente per l'altro. Giovanella mi fa, ti hanno fatto festa i punti, adesso sì, devo fare.